Senta, Ministro, nei giorni scorsi c'è stato un qualche anche pasticcio comunicativo sul tema dei ticket sanitari che interessano tutti gli italiani. Ci vuole chiarire se saranno aumentati, se aumenteranno nei prossimi anni, che cosa si sta studiando? Sì, è piuttosto semplice chiarirlo. A volte i pasticci comunicativi sono più facili da risolvere di quanto si pensi. Non ci saranno, non sono allo studio, non ci saranno nuovi ticket nel senso di nuove richieste di compartecipazione ai cittadini per le spese sanitarie. Quello che a legislazione vigente ci sarà, a meno che evidentemente non cambi la legislazione vigente, ma è difficilmente configurabile un cambiamento in queste condizioni, è che sulla base delle decisioni prese dal Parlamento lo scorso luglio del 2011, a partire dal 1 gennaio del 2014 c'è una richiesta di aumento della compartecipazione per un ammontare di 2 miliardi, che se non succede niente comporterà dal 1 gennaio 2014, non in forza di decisioni di questo governo o di decisioni attuali del Parlamento, ma in forza di decisioni già assunte, un aggravio dei ticket. Lei dice, non solo mio, ma di molti altri, questo aggravio non è tollerabile dal sistema e dunque la proposta che io ho cominciato ad avanzare è di cominciare a discuterne per tempo. Sarebbe forse più semplice dire, siccome 1 gennaio 2014 se la vedrà il prossimo governo, più semplice ma forse meno responsabile. Allora io ho cominciato a proporre e a porre il problema ai decisori, agli esperti, agli studiosi, a chi ai vari livelli ha qualcosa da dire sulla sanità, dicendo: guardate, se condividiamo la premessa che non è sostenibile dal punto di vista del sistema, dal punto di vista dei cittadini, dal punto di vista proprio della logica del Servizio Sanitario Nazionale, un aggravio dei ticket, che non è una cosa di domani, ma se non facciamo nulla dal 1 gennaio 2014 dovrà avvenire, allora cominciamo a vedere se ci sono le condizioni per rimodulare sulla base di principi condivisi, una maggiore equità, una maggiore trasparenza, una maggiore omogeneità, e studiamo delle forme che non si attenuino il più possibile. Questa cosa mi faccia e capire dunque, Ministro, dal 2014 ci sono 2 miliardi da trovare, lo ha stabilito, diciamo, la precedente legislatura, il precedente governo. Invece di far pagare 2 miliardi agli italiani, si sta studiando, io credo che lei abbia anche come ipotesi quello di studiare una rimodulazione in base al reddito, cioè chi ha più reddito pagherà magari avrà un aggravio di ticket e chi invece avrà meno reddito no? Questa è un'ipotesi che è allo studio, naturalmente si tratta appunto di ragionamenti il cui obiettivo è quello di incidere il meno possibile dal 1 gennaio 2014 sulla vita, sulle tasche dei cittadini, e ci sono più possibilità che si stanno vagliando ed è una discussione in corso. Ho voluto semplicemente aprire questa discussione. Aprire questa discussione. Però questi due. La comunicazione politica, non sempre si riesce a focalizzare, quindi è assai opportuna questa punta di vista. Però, Ministro, 2 miliardi vanno trovati in un modo o in un altro, o pagheranno alcuni in base al reddito, ci sarà una discussione che potrà durare un anno, eccetera, però un aggravio di qualche modo ci dovrà essere di questi ticket, altrimenti 2 miliardi come si trovano? Ma se noi partiamo dalla premessa che l'attuale sistema della compartecipazione tramite i ticket non presenta condizioni soddisfazione sotto quei tre criteri che dicevamo prima, cioè la trasparenza, la omogeneità e la equità, non è difficile immaginare. Poi la soluzione concreta io non posso naturalmente adesso anticiparla, perché sarebbe poco coerente dire apriamo una discussione, però io so già con dove andremo a finire, quindi ditemi sì o ditemi no, e questo non è il modo di aprire una discussione. Però se condividiamo quei tre capisaldi, probabilmente l'approdo finale potrà essere un meccanismo nel quale si potrà chiedere, tra virgolette, un sacrificio a chi se lo può permettere, e quindi in realtà non sarà un sacrificio, ma andrà a beneficio dell'insieme senza dover andare a incidere su chi o se lo può permettere di meno, o in forza delle condizioni di reddito e di patrimonio, o in forza proprio della condizione di malattia, perché naturalmente una condizione di reddito o di patrimonio cambia a seconda del tipo di patologia di cui una persona, o di patologie di cui una persona è portata. È chiarissimo. Senta, la revisione della spesa prevede 5 miliardi da tagliare nei ministeri. Il Ministero della Sanità che cosa è disposto a tagliare? Ci dica su cosa, col supercommissario Bondi, siete disposti a dire: in sanità tagliamo questo, si può tagliare? Beh, questa è una discussione delle prossime ore e nei prossimi giorni. Noi abbiamo una ipotesi che, come noi, con questo indubbiamente ogni altro ministero, che va a individuare quelle, non è un, abbiamo diviso all'interno, il Ministero della Salute non ha un budget elevatissimo perché ha un numero di dipendenti relativamente contenuto, e il grosso della cosiddetta spesa sanitaria va fuori dal Ministero della Salute, quindi da un certo punto di vista si tratta di dare un criterio rispetto ad un ammontare complessivo che è significativo, ma non in termini assoluti. Allora noi abbiamo diviso tra una spesa che consideriamo rivedibile, che è una spesa che consideriamo non rivedibile. Non rivedibile è la spesa della ricerca sanitaria, delle azioni di sanità pubblica, Centro Nazionale di Prevenzione e Controllo delle Malattie, e della spesa per andare incontro all'indennizzo delle persone che hanno avuto dei danni, in particolare politrasfusi. Quella rivedibile. Questa è spesa considerata non rivedibile. Quella rivedibile, a quanto ammonta quella rivedibile? Ammonta a circa 600 milioni. Ecco, su questa spesa rivedibile, circa 600 milioni, noi abbiamo applicato non una proposta automatica di taglio automatico e lineare, perché non sta nella funzione probabilmente della revisione della spesa. La revisione della spesa deve andare a trovare, se è vera revisione, le aree dove è possibile incidere di più o maggiormente, perché se vado a incidere in modo lineare automatico probabilmente faccio una riduzione della spesa, ma non una vera e propria revisione. Allora, noi abbiamo fatto adesso i dettagli, non è possibile evidentemente tradurli, anche perché siamo a livello ancora di proposte, ma abbiamo fatto sulla spesa rivedibile, che è spesa di funzionamento, che è spesa delle strutture, delle strutture dell'articolazione del Ministero, siamo andati a cercare un criterio che arrivi a un risultato significativo. Attualmente in ordine al budget, no? Che è quindi quanto si potrà tagliare secondo lei di questi 600 milioni? Noi allo Stato abbiamo ipotizzato rispetto a quella spesa rivedibile di 600 milioni, che è circa la metà della spesa totale del Ministero, quindi è una cosa significativa, ma appunto con quelle cautele che dicevo, quella premessa che il budget del Ministero della Salute è un budget in valori assoluti contenuto, noi abbiamo ipotizzato nel triennio di arrivare a un significativo una significativa revisione della spesa che sta nell'ordine dei 60 milioni a regime nel triennio. 60 milioni nel triennio. Siamo comunque, vorrei precisare, a livello di ipotesi. Un'ultima domanda, Ministro. Lei è ancora convinto che ci voglia una tassa sul cibo spazzatura e sulle bevande gasate, come fanno per esempio a New York sulla Coca-Cola? Ma io sul cibo spazzatura non ho mai detto nulla, in realtà. Sulle bevande gasate? Sulle bevande gasate ho avanzato d'intesa con il tavolo delle regioni, ma l'ho fatto a dicembre, ecco, ho avanzato una ipotesi che in coerenza con quanto accade da tempo in altri paesi, sia europei sia extraeuropei, volta a dare un segnale che in ordine a quel segmento specifico la necessità di un consumo moderato è particolarmente forte e avvertita specialmente dei però ipotesi cosa vuol dire? Cioè, un segnale si farà? Si fa a dare un segnale, certo. Si può dare in tanti modi, ecco. Fin dall'inizio ho chiarito che questo sarebbe stato un punto inserito all'interno del nuovo patto per la salute 2013-2015. Ma un'ipotesi, cioè secondo lei si farà o no? Lei auspica di sì, ecco, diciamo. Ma se ho avanzato questa proposta è perché evidentemente penso che possa essere utile. Nel quadro delle finalità di questa proposta, che indubbiamente avevano anche quello di attirare l'attenzione dei consumatori sulla necessità di un consumo moderato di questo tipo di bevande dolcificate, perché stiamo cambiando proprio la nostra percezione del gusto e con dei danni possibili alla salute, nell'ambito di tutto questo aprire, come si è fatto già, una discussione in cui appunto, come facciamo noi in questo momento, possiamo con serenità e tranquillità parlare di queste cose, e questo è già un risultato. Il ministro della salute è già soddisfatto di questo, che se ne parli. Intanto la ringrazio, ministro, per essere stato con noi. Grazie, buona giornata ovviamente al ministro Renato Balduzzi.